Ora 21, qui è Radio Onda Rossa 87.9 in modulazione di frequenza e sul sito www.ondarossa.info. Inizia prove tecniche di trasmissione, anche per oggi, 4 novembre del 2020. Intorno alle 22.30 ci sarà il ritorno di 25 o'clock. Per le comunicazioni mediante posta elettronica, ondarossa@ondarossa.info. La radio ha anche una pagina Facebook, come la ha questo programma che è prove tecniche di trasmissione / disorder. E domani su questi riferimenti ci sarà naturalmente il podcast, la registrazione di questo programma. Saluto Sara K.O. Fontana di Progetto No Name in Toscana, Maia dalla Sardegna, anche Cristiano Bocci ci sta ascoltando dalla Toscana. Un saluto a Daniele Santagiuliana di Testi in Volt, credo da Vicenza, Tabua Rasa dalle parti di Cortina d'Ampezzo. Un'altra persona che ci sta ascoltando dalla Toscana è Daniele Ciullini, che salutiamo. Poi vado a salutare Lupsi, nella persona di Lucia Cagliazza. Il Piemonte poi di Enrico Cerato, Wurnus Island, l'Umbria di Roberto Faloci con Phantom Ship. Enrico Cerato lo ricordo come Petrolio. Poi il Medico delle Peste, Cordis Cinti Serpente con Giovanni Lisi in Puglia. Buonasera anche a Marco qui a Roma. E quindi vado anche a salutare Like Awake, progetto omonimo, e Sasha Rovelli della Lucesia. Anche lui coinvolgeremo in qualche modo attraverso la sua etichetta. Lui ci sta ascoltando dalla Svizzera, da Bellinzona. Quindi andiamo ad iniziare con questa collaborazione tra AIMA, ex Legion Discordan, AIMA Project, insieme a Illusion of Silence di Luca Bonandini. Insieme hanno stampato l'interessantissimo Music for Certain Rituals, che ci siamo già ascoltati nelle scorse settimane. Un album che trasuda trascendenza e atmosfere tipicamente ritualistico-sacrali, caratteristiche che si confermano in questa Tourist Tablet e To Death, che è la traccia che lo va a chiudere. È sempre piacevole ricevere una telefonata, una chiamata dal caro vecchio telefono, nello specifico dal buon Vlado Vladimiro, che saluto. Abbiamo scoperto che mentre lavora ci segue fedelmente, ne siamo assai felici. Vado a salutare anche Simone Scalise e Francesco Cretel di Audio Chaos, progetto Dark Wave Calabrese, la rossa zona rossa Calabra, che chiaramente non è un riferimento, ahimè, politico, ma cerchiamo anche di scherzarci un po' su. Le cosiddette zone rosse, da queste parti siamo in giallo, anche Lombardia e Piemonte saranno zone rosse. Il tormentato e effettivamente funereo intimismo di Aima Project and the Illusion of Silence in questo Music for Certain Rituals, una azzeccatissima collaborazione tra questi due artisti italiani. Consiglio di nuovo di sentirseli anche nelle loro carriere autonome, anche Legemo Discordan, il vecchio progetto di Aima insieme a Roberto Del Vecchio, ora Shadow Project. Ottima la voce di Aima, una delle migliori voci in circolazione. Chi invece in questa occasione ha fatto a meno della voce, e io aggiungo ahimè, è Anna von Hauswolf. Artista dal sottoscritto molto apprezzata nei suoi album in questi anni, e ne è uscito un altro proprio ad ottobre dal nome All Fools Fly, che è dedicato e ispirato al Parco dei Mostri di Bomarzo, che molti di voi conosceranno. Album totalmente strumentale che vede protagonista ad altissimi livelli un organo della chiesa di una chiesa in Göteborg in Svezia, ovviamente registrato attraverso l'equipe della Svenska Grammophonstudion, organo ovviamente suonato dalla stessa Anna von Hauswolf. Per cui ci ascoltiamo Theater of Nature e Il dolore di Orsini, e qui proprio il riferimento diretto al parco testé nominato. Oh. Ultimo lavoro per Anna von Auswolf, artista svedese, All Fools Fly. Un'attesa uscita per questa artista, che è tra le più interessanti degli ultimi anni. Album dunque che si caratterizza per il fatto che è suonato soltanto da questo splendido organo. Avete sentito il soffio proprio dell'organo, delle mani che corrono sulla tastiera. Il fascino arcano veramente ammaliante, devo dire, soprattutto questo Il dolore di Orsini, forse è uno dei passaggi più intensi di questo lavoro. Un artista che più o meno vedo che mette d'accordo tutti. Intanto vado a salutare Nicola Locci di Hexagonal e Stigmate. Michael Bonaventure, un grosso abbraccio, lui è in Scozia ed ha prodotto Cross the Blood insieme a Lupsi, un bellissimo lavoro che ci siamo ascoltati recentemente. Emanuele Fais, Pioggia d'Ambra. Eccoli qua, Gianluca Becuzzi e Maria qui a Roma, Antonio Zoviet in quel di Firenze, fedelissimo. Bene, lasciamo la bionda e ottima pianista Anna von Auswolf. E come promesso in sede di Disorder, vado a riprendere questa compilation che mi è stata proposta da Francesco Cornello, che saluto, in quel di Bergamo, questa F Hear This, una compilation particolare perché si sviluppa sia nell'ambito della New Wave, del Gothic, e quindi in una dimensione adatta a Disorder, ma in altri momenti invece gli artisti vanno su lidi prettamente sperimentali e quindi sono più adatti a questa dimensione del mercoledì sera. Per cui vado ad ascoltare e a mettere un artista, ammetto, a me sconosciuto, dal nome The Bleach, scritto Bleach. Ci ascoltiamo Where Cardoon, un progetto credo tedesco, proprio degli anni 80. Poi ci ascolteremo il Gregorio Bardini, un nome che ai più sicuramente non rimane sconosciuto, e poi invece un altro nome decisamente molto più sotterraneo che saranno gli Orient Express. E quindi partiamo con The Bleach, con questa Where Cardoon. Dopo le onde quasi gezzate di The Bleach con Where Cardun è partita la invocazione di Giuliano Kremers, veramente robotica, di Gregorio Bardini, flautista e compositore. Questi sono i francesi Orient Express. Indubbiamente basso funky, ma il resto è indubbiamente sperimentale. In articulo mortis la traccia in questione, Orient Express. Thank you. Tratti dunque da questa F Hear This, ringrazio Francesco Cornello, una compilation ideata e a supporto della A Rivista Anarchica, che ultimamente credo abbia chiuso, ahimè. Uscì tanti anni fa con il supporto di Vittore Baroni e Marco Pandin. Tanti artisti molto diversi tra di loro. Testimonianza lo sono stati The Bleach, il buon Gregorio Bardini e questi Orient Express, oscuro duo francofono con Eric Baron e Pascal Jakubowski, una sola opera nell'85, Cocktail Molotov e poi L'Oblio. Saluto anche Sara e figliuola. Allora, atterriamo nel territorio della Lucesia, la menzionata etichetta svizzera di Sascha Rovelli. 3 anni fa uscì l'esordio per quanto riguarda Noise Cluster di Flavio Derbecant e Arianna Degni Lombardo, dal nome Planet of the Lost Dolls. Un'altra uscita è più recente, insieme a Like Awake, ce la siamo già goduta qui in prove tecniche. Sta per partire a Living Hell e Disappearing. my space. Nobody's safe. Monsters lurk at every corner. We are not safe. You are not safe. Evil eyes pierce the darkness. Damned souls roam daylight. This is a living hell. Gotta go, yes. We gotta go. Gotta take you to a space we can call our own. Gotta take you out of space. Take your feet. Gotta go. Stop, honey. We gotta go. Thank you. emana una luce malsana questo album di Noise Cluster, questo Planet o The Lost Dolls. Flavio Derbecant per molti anni è suonato come D.B. Pitt, lì c'era la tromba aliena, cosiddetta tale, tromba autocostruita di dimensioni molto più piccole di una tromba cosiddetta normale, che ogni tanto usa anche in Noise Cluster, che invece, diciamo, effettivamente, come dice il buon Emanuele, sono più abrasivi, mantenendo comunque un aspetto visionario che a noi piace molto per quanto riguarda Noise Cluster, che vengono paragonati anche ai nostrani Chris & Cosey. Credo un enorme complimento che loro gradirebbero. Flavio Derbecant e Arianna Degni Lombardo, che nasce come grafica dal nome Xena, e poi insieme hanno fondato per l'appunto questi Noise Cluster, in questa occasione come un album che esce per la Lucesia. Anche questa sera molto molto materiale italiano. Andiamo da Daniele Santagiuliana, che salutiamo. Ci andiamo per goderci il suo The Nightland, un suo ultimo lavoro che sicuramente farà venire i brividi agli amanti dei Coil, di Narcy with Moon, eccetera. Quindi i suoni che usciranno da questo CD sono assolutamente accattivanti e da goderseli fino in fondo. Inizia con Life in a Smiling Falling Comet e Dust and Thieves on the Floor. Oh! veramente alti livelli per quanto riguarda Testing Vault con questo ultimo suo lavoro. Si chiama The Nightland, sciami di impulsi sinistri pervadono l'intera opera. La giusta tensione, qui a prove tecniche di trasmissione, quando si usano aggettivi del tipo psicotico, urticante, e chi ne ha più ne metta, naturalmente sono dei complimenti artistici che in questo caso rivolgiamo completamente a Daniele Santagiuliano e i suoi Testing Vault. Una carriera, direi, intensa, piena, pregna di lavori. Abbiamo messo anche una bellissima foto espressiva qui sul profilo mio personale, che tutti quelli che stanno seguendo e scrivendo possono anche osservare ed ammirare. Un Daniele Santagiuliano in splendida forma in quella foto. Ottimo lavoro che ci ascolteremo anche la prossima settimana. Non lontanissimo come climi è il buon Daniele Ciullini, che anche lui con la Lucesia, tornando un attimino alla Nightland, ovviamente esce per la Hellbones Records, etichetta qui assai apprezzata al pari per l'appunto della Lucesia, che ritorna con Daniele Ciullini. Questo è Poison in Atom con, come dicevo, non lontanissimo dei climi di Testing Vault. Pills and Walls e Control and Obedience.